Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Potremmo forse assistere nei prossimi anni alla nascita di una nuova classe di frigoriferi e condizionatori basata su materiali chiamati a memoria di forma, conosciuti da tempo ma mai utilizzati per questo tipo di applicazioni. La notizia arriva da un team di ricercatori guidati dai professori Stefan Seeleke e Andreas Schutz dell'Università del Saarland e da due ricercatori, Gunther Egeler e Jan Frenzel della Ruhr University di Bochum in Germania. Questo team ha sviluppato un nuovo metodo di raffreddamento in cui il calore e il freddo vengono trasferiti senza utilizzare compressori o assorbitori come di fatto si fa a partire dalla metà dell'Ottocento. Per commentare questa notizia abbiamo in linea con noi Alberto Molinari, professore di metallurgia al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Trento. Buonasera Molinari, grazie di essere con noi stasera. Buonasera a lei e grazie per avermi invitato. Allora Molinari, cominciamo io direi cercando di ricordare ai nostri ascoltatori che cosa sono questi cosiddetti materiali a memoria di forma. I materiali a memoria di forma sono delle leghe metalliche che, come tante altre leghe, hanno una trasformazione di fase allo stato solido, quindi passano da un solido a un altro solido. È una trasformazione reversibile, quindi avviene riscaldando e poi avviene nella direzione opposta raffreddando. Ed ha la caratteristica peculiare che avviene causando una deformazione, cioè un cambio di forma del pezzo che subisce la trasformazione, e questo cambio di forma è anch'esso reversibile. Quindi si può dire che il materiale ricorda, quando viene scaldato e arriva ad alta temperatura, la forma che aveva prima di questa trasformazione, e quindi quando viene raffreddato la recupera. Oppure quando per esempio io lo deformo, lui si scalda ma poi torna lentamente alla forma che aveva quando era più freddo, esatto. No? Cioè c'è la capacità in sostanza di passare non solo da una struttura all'altra ma anche da una forma all'altra. La cosa non è proprio così semplice, certo. E così affidabile in tutte le leghe, però in particolare nelle leghe nickel-titanio, che sono oggetto di questa interessante notizia che stiamo commentando questa sera, sono caratterizzate anche da una certa affidabilità. Affidabilità, perfetto. E si usano, io ricordo per esempio tanti anni fa, degli occhiali fatti in materiale memoria di forma, se uno ci camminava sopra si stortavano tutti, ma poi dopo mezz'ora erano tornati alla loro forma originale. Questo per dire che non sono cose misteriose, no? Sì, si usano ad esempio, li usano molti dentisti. Mm-hmm. Ecco, hanno delle punte da trapano molto elastiche che vengono utilizzate per l'elaborazione dei canali più intricati di forma. Ecco, allora come si può immaginare di utilizzare questi materiali per fare una refrigerazione, per farci un frigorifero o un condizionatore? Allora, in linea di principio qualunque materiale può essere utilizzato per lo scambio termico, purché abbia una trasformazione di fase, perché le trasformazioni di fase avvengono tutte con uno scambio termico con l'ambiente. Avvengono di solito a una temperatura costante e o assorbono o cedono calore, come quando facciamo bollire l'acqua. Calda e avanti così. L'acqua che invece condensa assorbe calore e quindi raffredda. Dunque, nel caso specifico, per l'utilità di un materiale per la refrigerazione dipende dalla compatibilità delle temperature della trasformazione di fase con le temperature del fluido che deve essere refrigerato. Quindi nello specifico, avvenendo le trasformazioni di fase nelle leghe nickel-titanio a temperature dell'ordine dei 20, 40, 60 gradi, immagino che sia effettivamente possibile, ad esempio, raffreddare dell'aria calda che non sia in questi intervalli. Dunque noi lo pieghiamo, cambia fase, cambiando fase scambia calore, poi dopo lo lasciamo ritornare nella forma originale. Quando torna nella forma originale cambia fase un'altra volta e il calore che ha prima assorbito adesso lo cede. E poi continuiamo a ripetere all'infinito, diciamo, questo ciclo. Continuiamo a ripetere questo ciclo all'infinito e sull'infinito dobbiamo discutere. Ecco, e qui infatti viene fuori forse uno dei problemi che potrebbero avere, no, questi sistemi. Ma guardi, ci sono due tipi di problemi. Il primo lo menzionavo prima, le temperature di queste trasformazioni dipendono fortemente dalla composizione chimica e anche piccole variazioni nella composizione chimica determinano grandi variazioni nelle temperature. La prima criticità quindi è nel controllo del processo produttivo, perché questo è estremamente importante. Secondo elemento, queste leghe adesso vengono utilizzate più di quanto hanno visto utilizzate in passato, quindi gli scienziati e i ricercatori hanno cominciato a porsi il problema. Non è che a forza di ciclare meccanicamente queste leghe si innescano i fenomeni di fatica meccanica, e quindi questo è un elemento di studio e che è oggetto di verifica da parte di molti. Cioè, insomma, se devo farci un frigorifero non deve rompersi più spesso probabilmente di quelli che già esistono. Si deve rompere qualcos'altro del frigorifero prima che si rompa il filo. Questo, come sempre, insomma, ecco. Grazie professor Molinari. Grazie a lei, grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.